oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno Willy, buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qui per una nuova puntata di Oltre la crisi. E visto che ci avviamo, siamo in cammino verso il 25 di novembre, che sarà la giornata internazionale contro la violenza alle donne, e visto che la nostra radio sta dedicando speciali, sta dedicando focus proprio a questo percorso, in più nei giorni scorsi è stata ripresentata in città la nuova campagna Noi No, quella dove sono gli uomini a prendere posizione proprio su questa tematica. Bene, mettendo insieme tutto questo, oggi abbiamo deciso di parlare di femminicidio, anche se è una parola che io non amo moltissimo, devo dire la verità, però insomma così, utilizzando questo vocabolo, riesco a far capire l'argomento che affrontiamo oggi. Tante donne uccise anche questa settimana, e la scorsa sono usciti articoli e notizie su una donna trovata strangolata a Palermo, un'altra uccisa, si cerca il marito, un'altra ancora il compagno, un'altra ancora il custode. Insomma, Francesco, innanzitutto inquadriamo in generale questa questione. Tante donne uccise, una specie di strage fondamentalmente, che non cenna ad arrestarsi, malgrado la nostra società in teoria avrebbe dovuto compiere qualche, come dire, progresso. No, io credo che per ora non si arresterà, perché sono abbastanza sane, vive le ragioni profonde per cui questo accade, e ne vorrei portare due fondamentalmente, su cui poi eventualmente, solo per accennarle per ora. E cioè l'idea che nella relazione con un'altra persona ci possa essere qualcosa che somiglia a un possesso è il primo punto. Il secondo punto è l'idea che sia ingestibile, insopportabile, insuperabile l'amore non corrisposto. In questo caso entra l'argomento del lutto e dell'elaborazione del, certo, lutto. In entrambi i casi, perché si può perdere un legame e si può perdere qualcosa che si possiede. E si può continuare a sopravvivere anche. Sì, e si può continuare a sopravvivere. Allora, il problema è togliere il terreno di coltura, l'acqua che nutre questo tipo di fenomeni terribili. E cioè, fondamentalmente, due fattori. Il fatto di pensare che una donna può essere mia, e quindi di converso un uomo può essere mio, e che questo sia un fattore che ci lega, che fa sì che stiamo insieme, che ci sposiamo, così eccetera, e l'altro, che l'altro non abbia il diritto di non amarci quando noi ancora lo amiamo. Questi sono i due terreni di coltura del femminicidio. Quando una persona, una donna, non vuole più essere tua, tu esigi che il tuo diritto di proprietà si affermi. Se non si afferma, puoi fare come quel famoso personaggio di Verga, che nel morire si porta dietro, cerca di portarsi dietro alla sua roba e dice: roba mia, vienitene con me, e distrugge tutto. L'altro aspetto è l'aspetto invece della crisi della dell'anima maschile, potremmo dire in qualche modo così, cioè nell'anima maschile si è instaurata nel corso del tempo una tale vulnerabilità e una tale insicurezza che il no dell'amore equivale a essere uccisi. E se qualcuno ti uccide, tu puoi pensare che sia giusto eliminarlo. Ma questa insicurezza che tu dici deriva solo da un'insicurezza, diciamo, umana, legata alle paure umane in generale, oppure è un percorso che si è instaurato togliendo dei sacri pilastri, diciamo così, che una volta c'erano? Mi riferisco, mi spiego meglio, una volta c'era riconosciuto il delitto d'onore, una volta era riconosciuto tutta una legislazione sull'abbandono del tetto coniugale, e quindi c'erano tutta una serie, il divorzio non esisteva, quindi c'erano tutta una serie di normative e legislazioni e controllo sociale sulla donna che in realtà le impedivano di muoversi da dove si trovasse. Bravissima, è proprio, come dire, si potrebbe dire che il femminicidio è il frutto perverso del femminismo, nel senso che nella misura in cui la donna, la femmina esce da uno stato di minorità sociale, quindi non può essere più posseduta, è una persona che ha il diritto di dire sì o no, no? Che ha il diritto di amare o non amare chi le pare, che non devono scegliere gli altri per lei. Cioè, nel momento in cui le istanze femminili si affermano, questo indebolisce il maschio, perché la forza del maschio in molte culture non è una forza reale, è relativa alla debolezza della femmina. E nel momento in cui, anche grazie alle conquiste del femminismo, no, questo si ribalta e non c'è un mutamento, una, soprattutto educativo, dell'anima maschile, no, i rapporti di forza cambiano e una donna può incontrare un uomo pensando di stabilire un rapporto alla pari, ma può innamorarsi di un uomo che non è capace di stabilire un rapporto alla pari, ma che ha bisogno di possedere, perché altrimenti non ce la fa, e che ha bisogno di sapere che basta che ami lui la donna. È quasi secondario che la donna lo riami. Direi che Willy, io sono già qui pronto, guarda, vi ascolto. Su questo concetto possiamo dare i numeri di telefono. Esatto, perché direi che, insomma, l'argomento potrebbe stimolare molto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Non ho detto a caso ascoltatori per primi questa volta. Numeri di telefono 051 vai. In fisso 346458. SMS 333 180 94 94. Attendiamo vostri spunti e sollecitazioni. Per adesso musica. siamo in studio, siamo con Francesco Campione, Willy alla regia, e stiamo parlando di donne uccise per cosiddetto amore, con 450.000 virgolette. Però voglio aggiungere un aspetto. Abbiamo parlato di fattori culturali, abbiamo parlato di quello che è il frutto maligno e perverso, giustamente, frutto perverso di quello che è la, appunto, l'affrancamento e la liberazione della donna in un qualche modo. Voglio aggiungere un fatto: qui non parliamo di un omicidio, ma per fortuna, però comunque sta nello stesso schema. Voglio tornare a una notizia di alcune settimane fa, che era quella dello stupro di gruppo a Modena a cura di alcuni ragazzini adolescenti nei confronti di una loro quasi coetanea, un po' più piccola. E uno dei commenti che sono usciti, delle dichiarazioni che sono uscite dai primi denunciati, dai primi ragazzini denunciati, è stato: ma lei era consenziente, o meglio, probabilmente aggiungiamo noi, non ha opposto un solido no a questa attività che si stava svolgendo sul suo corpo. Però io mi domando un'altra cosa: c'è proprio bisogno di un no effettivo, di una difesa strenua con unghie e denti, eccetera, oppure un ragazzo dovrebbe arrivarci da solo che quello che sta succedendo ha qualcosa che non quadra, è qualcosa di perverso, userei la stessa parola, non certo dal punto di vista sessuale, perverso intendo, ma dal punto di vista valoriale. Certo, ci sarebbe bisogno, cioè sarebbe sufficiente il sì o il no se la volontà portasse in sé l'etica. Cioè, se noi abbiamo bisogno, per sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, di avere un consenso, paradossalmente noi potremmo un giorno metterci d'accordo, come può succedere in certe situazioni, metterci d'accordo sul fatto che quando una banda di ragazzini fa violenza a una ragazza, questo si può fare. Possiamo ottenere un consenso su qualunque cosa. L'umanità è specialista in questo, nell'ottenere consensi su cose turpi, no? Allora, la cosa che bisogna fare fondamentalmente è distinguere tra la volontà, il consenso, e l'etica. Cioè, tu puoi dare il consenso su una certa cosa, ma anche se dai il consenso, può essere sbagliata lo stesso. Non è che una cosa è giusta o sbagliata a seconda della volontà delle persone, perché se fosse così sarebbero giuste le cose che ci fanno piacere e sbagliate le cose che ci dispiacciono. Ma una cosa che ci fa piacere potrebbe essere sbagliata per un altro perché a quello dispiace, mentre a noi ci fa bene o è giusta. Per esempio, è giusta per quei ragazzini e è sbagliata per quella ragazza. Allora per chi è sbagliata? È giusta o è sbagliata? È giusta per alcuni o è sbagliata per altri? Ora, è chiaro che noi viviamo, certe volte abbiamo l'impressione di vivere in un mondo così, cioè in un mondo in cui è sulla base della volontà che si stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è la deriva che bisogna evitare. E allora le possibilità quali sono? Le possibilità sono alcune possibilità, quelle come dire della filosofia che ci sta alle spalle, no? Una possibilità è che è più consolante, che ciascuno ha dentro di sé una legge morale, cioè, come dire, quei ragazzi lo sapevano che era sbagliato dentro di sé e l'hanno fatto lo stesso, perché ha prevalso in loro qualcos'altro, un istinto, cioè perché non si sono controllati, ma lo sapevano che era sbagliato, d'accordo? L'altra possibilità... Forse anche il gusto di fare qualcosa che è notoriamente, certo, classificato come sbagliato. Certo, perché... certo, certe volte, per esempio, molti di questi comportamenti tante volte si giustificano perché sono trasgressivi, no? perché tu tra l'altro puoi esserti fumato qualcosa, ti sei bevuto un tot di birre, sei tu che l'hai fatto o è la chimica del tuo corpo così, come si è modificata? Quindi questa è una possibilità. Se fosse così, il problema vero sarebbe l'autocontrollo. Il problema vero non sarebbe insegnare alle persone cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma sarebbe insegnargli a controllarsi in modo da far corrispondere il proprio comportamento con la legge morale che ha dentro di sé. Ora io dubito però che Kant abbia ragione quando dice che l'umanità si identifica con la dignità, perché l'uomo, la caratteristica fondamentale dell'uomo è che ha dentro di sé la legge morale. Non credo che vada bene per tutti, che sia vero per tutti. È vero per alcuni, per altri non è vero. Cioè io penso che non è che la legge morale ciascuno ce l'ha dentro di sé dalla nascita, una cosa innata, ma che la legge morale sia qualcosa che dentro di te ci mettono gli altri. Allora quei ragazzi, potrebbe darsi per esempio che non che sapevano che era sbagliato e non si sono controllati, ma non si sono controllati perché nessuno gli aveva detto che era sbagliato. Come stanno le cose? Ci sono pro e contra per l'una o per l'altra tesi. Io propendo per una terza possibilità, e cioè che quello che è accaduto è in realtà il fallimento della relazione tra quei ragazzi e quella ragazza. Un gruppo di ragazzi possono benissimo desiderare di avere un desiderio nei confronti di una ragazza, possono chiederlo o non chiederlo, possono basarsi su una legge morale oppure no, ma al minimo sospetto che stanno facendo una violenza si fermano. Ma non perché, soltanto perché hanno la legge morale dentro di sé, ma perché c'è un altro a cui faresti violenza anche se ti fa piacere. Allora il problema, secondo me, è il fatto che nella relazione con l'altro tende a prevalere il bene proprio sul bene dell'altro. Quello che bisogna insegnare alle persone è che non basta che una cosa è buona per sé, perché se è cattiva per un altro bisogna fermarsi. E qui ti leggo anche un messaggio che ci è arrivato, perché allarghiamo ancora di più, però collegandoci, mi volevo collegare al discorso che facevamo l'altra volta su una tematica completamente diversa del rapporto tra vittima e carnefice. Dove sta l'uno, dove sta l'altro, dove convivono e quant'altro. E Renato ci manda questo messaggio rispetto al primo intervento che hai fatto. Ma chi ha allevato questi maschi perversi? Una madre. E questo è il commento lapidario che ci arriva. E vorrei proprio andare in profondità su questa cosa, perché in effetti dietro a un uomo, un piccolo uomo che cresce e diventa grande uomo, grande nel senso adulto, ci sono un padre e una madre. Certo, ma dietro quel padre e quella madre ci sono altri. Non credo che bisogna fare. C'è un grado di verità questa osservazione, ed è un'osservazione nota anche. Si capisce, si sa. Allora, c'è un processo educativo, ci sono altri che te l'hanno insegnato oppure no. Appunto, quegli altri che ti dovrebbero mettere dentro la legge morale, in realtà ti hanno messo dentro l'idea che siccome sei loro figlio puoi fare tutto quello che vuoi, basta che stai bene. Perché se ti hanno messo dentro quella di convinzione, tu, quando poi ti capita, ti autorizza la tua mamma, no? Il punto è che non è che l'unica alternativa sia che la tua mamma non ti autorizzi e tu abbia una voce della coscienza, cioè la tua mamma che ti guarda da dentro e ti dice no, non lo puoi fare perché sennò fai una cosa contro la mamma. Perché quelli che sostengono questo in realtà poi arrivano a quello, cioè noi che sono, come dire, la faccia, il permissivismo educativo è l'altra faccia dell'autoritarismo educativo. Allora io invece penso che il problema sia un problema più ampio, cioè come mai, se anche hai avuto una mamma permissiva, sei rimasto, oppure hai avuto una mamma autoritaria, sei rimasto condizionato dalla tua mamma, che sia permissiva o che sia autoritaria, e non hanno avuto nessuna influenza su di te i rapporti che hai avuto dopo? Tu come ci sei arrivato dopo? Dopo c'è qualcos'altro, c'è una storia. Cioè noi, come dire, questi povero papà e povera mamma, se a loro volta sono stati educati in un certo modo, nel loro repertorio c'hanno quello. Ma tu mica ti devi fermare al tuo papà e alla tua mamma. Nel momento in cui la tua mamma interna ti direbbe fai quello che vuoi e tu incontri una ragazza, no, tu non hai solo quella possibilità. C'hai anche le possibilità che ti insegna quel nuovo rapporto. Sì, sarebbe come dire che un figlio di ladri deve diventare per forza ladro. Esatto, esatto. I fiuti esatto. Gatti mangi pondi, si dice a Bologna. Ecco, vedi, ci ha riportato al popolo. Sì, non so se però tutti l'hanno capita. Comunque, come puoi si anche dice, tradurla, volendo. Come si dice a Bologna? I fiuti gatti mangi pondi, i figli dei gatti mangiano i topi. Certo, i figli dei gatti, ma che è una verità, però è una parte della verità. Sì, assolutamente. È una parte della verità. Non è tutta la verità. E poi soprattutto noi non siamo gatti. E soprattutto non siamo gatti, bravo, cioè soprattutto non siamo inevitabilmente determinati dalla nostra biologia o dalla nostra genetica. Infatti. Perché c'è anche l'esperienza. Appunto, tu sei figlio di un certo padre o di una certa madre, la cosa più bella che si sente certe volte è quando si sente dire mio padre era fascista e io sono comunista. Oppure mio padre non credeva in niente e io invece credo moltissimo. Oppure mio padre mi ha educato a fare così e io sono tutto il contrario. Sì. Certe volte sono tutto il contrario, vuol dire che sono contro mio padre. Attenzione, anche questo non va bene. E anche questo non va bene. Il problema è se la tua esperienza di vita umana, eccetera, oltre la famiglia, ha contato e ti ha insegnato qualcosa per cui tu poi, come dire, tu diventi uomo e c'hai la legge morale dentro di te, se viene da fuori, in base a tutti quelli che ti sono venuti dentro, non solo in base solo ai tuoi genitori. Perché se dobbiamo sperare solo ai nostri genitori, siamo fottuti. Assolutamente, anche perché la famiglia delle volte, il più delle volte, fa più danni che la dorifera alle patate. Questo è il mio parere personale. Quindi io direi proprio, e in questo caso è una malattia della patata che la rovina completamente. Per cui noi possiamo andare in pubblicità dopo questa chicca, questa perla che ho snocciolato. Sì, andiamo in pubblicità, ricordiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che possono interagire con noi attraverso il telefono 051 34 6458 oppure, come ha fatto Renato, mandandoci un sms al 333 180 9494. A fra poco. Stop. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Radio Città Fujiko, je t'aime. Take much more. Lost my appetite, I just can't eat. And when I close my eyes at night, can't get to sleep. Don't know what it is on me, but I thank you, girl, you see. Ain't complaining, baby, no. Cosmic feelings up and down my spine, radiating from your angel eye. When I touch you, girl, I wanna touch you more. You're the one that I've been waiting for. If you really wanna know the truth about it, I think I'm falling in love with you. I've got my head in a spin, but I'm digging the spin I'm in. Cause I love you, baby, love you, yeah. Torniamo in studio con Francesco Campione, Willy alla regia, sempre pronto a intervenire e a mandarci invece la musica per riordinare le idee. E adesso voglio toccare un po' più nel profondo questo argomento di cui stiamo discutendo, ovvero l'oppressione nei confronti della donna fino ad arrivare all'omicidio, partendo dalle violenze. E andiamo su due fronti. Il primo è, ok, violenza alle donne, la donna non denuncia o ha paura di denunciare per paura, scusate la ripetizione, oppure per sensi di colpa, perché comunque si sente sbagliata lei, perché comunque ovviamente tutto ciò le arriva dall'esterno, perché ha paura di essere giudicata malamente. e come la matta che reagisce e che appunto magari non aveva dato un no nitido. Socialmente, da questo punto di vista, è molto pesante questa cosa, e i centri antiviolenza stanno facendo un grande lavoro in questo senso, ma non è sufficiente. Stanno aumentando le denunce, stanno aumentando le prese di coraggio, però poi succede anche che quando ci sono queste prese di coraggio la comunità non ha gli strumenti per assicurare sicurezza a queste donne che prendono in mano tutta la loro forza che gli avanza e arrivano alla denuncia. Ma questo è, come dire, uno dei punti cruciali di questa vicenda, della vicenda della violenza alle donne e del femminicidio, perché non esiste un caso di femminicidio che non abbia alle spalle una lunga storia di violenza subita da parte della donna. Si sarebbe interrotto prima il ciclo della violenza. Il ciclo della violenza si conclude con la uccisione, ma prima c'è una lunga vicenda di violenze, il più delle volte. A meno che non si tratti di quei raptus, ma quelli sono rari. Quelli sono rari. E qui c'è, come dire, un nodo profondo, è che in psicologia si chiama l'identificazione con l'aggressore, no? E cioè noi non possiamo sottrarci tutte le volte che veniamo terrorizzati da qualcuno che ci fa del male, non possiamo sottrarci alla tentazione di voler essere al suo posto. Non ci possiamo sottrarre. Psicologicamente è come dire: mi stai facendo una cosa terribile, vorrei essere io a farla a te. Psicologicamente è un cortocircuito. Si desidera quella cosa lì, no? Il che significa che in definitiva tra chi terrorizza e chi è terrorizzato c'è come una complementarietà. Complementarietà che si svela nel momento in cui tu hai il desiderio di essere dall'altra parte. Come si fa? Perché se tu hai il desiderio di essere dall'altra parte e chi ti tortura lo scopre, questo in qualche modo giustifica la sua tortura. È come se tu e se lui dicesse: ti torturo prima io, perché se no mi torturi tu. Questo è un meccanismo che è insito in questo tipo di rapporti. Come si fa a interrompere tutto questo? Perché il problema è questo, cioè nel momento in cui tutto questo va troppo avanti e io sono sul punto di passare dalla tua parte, tu mi uccidi. Perché quello che succede è precisamente questo, che tu mi fai un sacco di violenza, io desidero essere al tuo posto e non ci riesco, e tu mi fai altra violenza. Io desidero essere al tuo posto e non ci riesco. Poi trovo un modo per farti una violenza terribile, ti dico di no e me ne vado, no? Cioè ci sono riuscito a mettermi dall'altra parte, perché il male che ti ho fatto è terribile. Allora io non posso fare altro che rilanciare un'altra volta con un'altra violenza, e la violenza estrema è che ti devo annullare, perché altrimenti sei tu che hai vinto. In quel modo perdo anch'io, naturalmente, perché ti perdo. Quindi è, come dire, una situazione assolutamente fallimentare. E il nostro problema è interrompere questo meccanismo. Come si interrompe il meccanismo della violenza? Attraverso una via che è sconosciuta alla contemporaneità, e cioè assumendosi la responsabilità della violenza dell'altro. Cioè la separazione netta tra il carnefice e la vittima dipende dal fatto che la vittima attribuisce tutta la colpa della violenza al carnefice, ed è per questo che la violenza non ti interrompe. Dopodiché desidera farla, non ci riesce, le viene fatta una violenza superiore, poi desidera farla fino a quando la fa quell'altro, gliene fa un'altra, e così via. Il meccanismo si interrompe se la vittima, e in questo, come dire, non per le ragioni che diceva Cristo, che diceva porgi l'altra guancia, ma per altre ragioni bisognerebbe seguirlo. Cioè bisognerebbe seguirlo perché si interromperebbe la catena della violenza. Per interrompere la catena della violenza, la vittima si deve assumere, si dovrebbe assumere la responsabilità della violenza che subisce. Cioè la colpa di quella violenza che mi stai facendo è mia, non è tua che me la fai, è mia. Se io riesco a raggiungerti con questo messaggio, la violenza si interrompe. Possiamo spiegarla meglio questa che mi sfugge? Sì, ti sfugge perché sfugge alla nostra cultura. Sfugge alla nostra cultura. E quando tu riesci a dire a uno che ti sta colpendo, no? Mi assumo io la responsabilità di questa cosa qui. Non è colpa tua, poverino. Tu non puoi fare altro. Non puoi fare altro tu. E non è che io vorrei fare quello che stai facendo tu a te perché me lo stai facendo a me. Ma io ti comunico che lo so. Guarda, non è colpa tua, è colpa mia di quella che è violenza che mi stai facendo, no? Cioè la responsabilità è della vittima. Se la vittima se l'assume quella responsabilità, questo cambia il rapporto col carnefice, no? Io, Dostoevskij diceva, io sono responsabile, tutti sono responsabili per tutti e io più di tutti. Cioè più violenza subisco e più sono responsabile, perché sono io che ti dovrei fermare e non ci riesco. In questo senso. Questo è il punto. Sono io che ti dovrei fermare e non ci riesco. Toccherebbe a me fermarti, perché sono io in quel momento che la subisco. Non posso chiamare un altro. Sono io lì. Cioè toccherebbe a me, ma non ci riesco. Subisco. C'ho paura. Tant'è vero che quando è che questo meccanismo si manifesta? Si manifesta in negativo quando la vittima riesce a trovare la forza per reagire e diventa più violenta del suo violentatore e lo colpisce. Ma questo vuol dire che riesce a passare dall'altra parte. Il meccanismo non si interrompe, semplicemente cambia l'attore. Cioè semplicemente ci scambiano le parti. Perché il meccanismo si interrompa è necessario. Per esempio, facciamo l'esempio delle torri gemelle, no? Che, di cui abbiamo parlato altre volte. Se l'America, quando ha subito lo stupro, l'evirazione, perché sono due simboli fatti, l'evirazione delle torri gemelle, no? Addirittura due cazzi gli hanno tagliato, non solo uno. Le due gli hanno. Orario protetto ancora? No, non me ne importa. Gliel'hanno tagliati due falli, due simboli fallici, due simboli del potere. Gliel'hanno tagliati due, no? Si fosse chiesto, ma se mi hanno fatto una cosa così e io non sono riuscito a fermarlo, ci sarà qualche ragione. Fermati un attimo. No, invece la reazione qual è stata? Una violenza superiore, cioè la vendetta, la cosiddetta giustizia occhio per occhio e così via. In questo caso però è un esempio che ci sta dal punto di vista iconografico, però questi due piselloni se li sono anche tagliati da soli, eh? Veramente se fosse stato per loro sarebbero ancora eretti. Non lo so. Sarebbero ancora non eretti lì. No, tant'è vero che poi ne alzano in tutto il mondo tanti altri. Ah, ma li rinnovano con quella scusa lì. Sì, no, ma il problema, la cosa da capire è che se l'umanità, quando subisce un torto, sì, certo, non certo. Si ferma e si assume la responsabilità di quel torto, il meccanismo della violenza si protrae all'infinito. Certo. L'altro esempio è israeliani e palestinesi. Sono tutti in quella direzione gli esempi. L'altro esempio è quando ti fanno un torto per la strada e tu gliene devi fare due. Uno più grosso. Gli esempi si possono moltiplicare. Quindi il problema sarebbe, appunto, che a proposito di mamme, no? La tua mamma, se viene colpita la tua mamma e la tua mamma riesce a dirti: poverino, lo so chi sei tu che fai questo perché sei uno sfigato. E gli arriva quella cosa lì, la violenza si ferma. Il fatto è che non è quello il messaggio che arriva. Il messaggio che arriva: vorrei essere al tuo posto. il messaggio che arriva è: vorrei scappare, no, vorrei essere da un'altra parte, vorrei, il messaggio che arriva non è: dato che sono qui, tocca a me riscattare quello che sta avvenendo, tocca a me interrompere la violenza. Lo stesso in Bosnia, no? Se quando il bosniaco è arrivato a casa di un musulmano e ha detto: questa è casa mia perché quattro secoli fa questo posto era mio, il tipo avesse detto: vieni, prenditelo, d'accordo, pigliatelo, e se ne fosse andato, la guerra non scoppiava. Ah, ma questo poi era senza casa, però. Sì, era senza casa, ma è meglio essere senza casa che tutto il resto che è accaduto dopo. Che non solo ha perso la casa, ha perso la vita, l'onore, ha perso la storia, ha perso la dignità, ha perso tutto. Meglio perdere la casa, eh? Allora, forse la ragione per cui non si riesce a fare è appunto quella, che tu dovresti perdere qualcosa per poterlo fare. Qualcosa di importante, no? Allora dice: dato che già mi hai violentato, vediamo di provare a far sì che tu cambi. Allora ci arriva giustamente una cosa che avevo in testa anch'io. So benissimo che non stai dicendo questo, ma è per quello che prima ti ho chiesto, spieghiamolo meglio. Ci dice questo messaggio: scusate, ma state forse dicendo che la donna è colpevole quando subisce violenza? Ma siamo pazzi? Forse non ho capito bene, o almeno spero. È esattamente... Certo, certo, questo è il travisamento possibile. La donna è innocente quando subisce violenza, ma di fronte al violento è all'innocente che tocca superare la situazione, non è al colpevole che tocca. Cioè non glielo puoi chiedere a un violento di smettere di diventare violento. E quando di fronte al violento tu innocente subisci la violenza, tocca a te fare qualcosa perché la violenza cessi, non tocca a lui, perché è improbabile che la faccia cessare lui. Se tu invece, subendo la violenza, diventi dentro di te, ti arrabbi e diventi peggio di lui e vorresti essere al suo posto, non c'è speranza. Invece, questo è il punto. Questo è il punto. E gli strumenti sono appunto quelli di, nel caso di, prima tu dicevi, se no si innesta il meccanismo opposto, sono quelli di trovare altre strade, che sono quelli di rivolgersi ai centri antiviolenza piuttosto che trovare supporto intorno a livello di comunità per poter fermare ciò che sta accadendo. Certo, ma siccome però quando ci si rivolge ai centri antiviolenza è successo già da secoli che, no, certo. Il problema è andare alla radice, cioè il problema vero è l'educazione dei bambini rispetto alla violenza. Quando un bambino arriva a casa e dice: papà, mi hanno dato un pugno, la maggior parte dei genitori rispondono: ridaglielo a tua volta. Sì. Questo è lì che casca, in quel momento che casca l'asino. Se tu invece al tuo bambino che ti dice: mi hanno dato un pugno, gli dici: perché? Cosa è successo? Cosa gli hai fatto tu? Io mi ricordo mia figlia alla scuola materna, è arrivato un giorno e dice: papà, mia Daniele mi ha spintonato. Cioè, scusa, ma tu cosa gli hai fatto? Dici: io, papà, siccome lui non ci vede e siccome lui non capisce, io non lo ascolto quando lui viene vicino, io faccio finta di niente. Beh, allora qualcosa gli hai fatto, no? Non è che ti ha spintonato così per se nessun motivo, eh? Cioè, all'origine la violenza, cioè bisogna andare all'origine del rapporto con la violenza, cioè non è di per sé la violenza dell'altro. Non dovresti imparare, come impariamo attraverso l'educazione, a giudicarla sulla base solo del male che ti fa, ma a giudicarla anche sulle reali ragioni per cui quello ti sta facendo del male. E può darsi che quel male che ti sta facendo, non dico che è giustificato, ma che è altrettanto giustificato del fatto che tu ti lamenti del male che ti è stato. Sì, tra l'altro il discorso è questo: siamo nel discorso del rapporto di forze, dove c'è un più forte che s'accanisce comunque su un più debole. Può essere il caso dei bambini che facevi tu, il bambino più forte verso il bambino più debole, oppure in questo caso appunto parlavamo di femminicidio. Dico questo perché ci è arrivato un messaggio: ci sono più omicidi ai danni di uomini sia in percentuale che in valore assoluto. Il femminicidio non esiste, vi è la violenza culturale di genere. E comprendo questo messaggio perché appunto tra l'altro tra pochi giorni ci sarà un'altra purtroppo celebrazione di cui faremmo a meno, che è quella verso le persone transessuali, che quindi incarnano un ruolo di genere femminile, quindi tra virgolette socialmente considerato debole, passatemi le 2000 virgolette, e quindi comunque stiamo facendo questo discorso sulle donne, ma può essere parallelamente traslato su quella che è la violenza di genere. Andiamo in pausa musicale, Willy? Come vuoi. E dopo rispondiamo. Stacchettino musicale per questo mercoledì 20 novembre, tanta tanta carne al fuoco da aggiungere ancora nonostante i pochi minuti. Mi sa che toccherà dedicarci ancora tempo a questo argomento, perché veramente il dibattito si sta come dire animando, e siamo molto contenti di questa cosa perché è lo scopo di questa trasmissione. Ti avevo letto un messaggio prima di andare in pubblicità, te lo ricordi o te lo rileggo? No, me lo ricordo. È l'argomento che di solito qualche volta si usa dicendo, ed è la ragione per cui in fondo neanche a noi piace il termine femminicidio, perché è come se si stabilisse una differenza tra l'essere uccisi quando si è femmine e l'essere uccisi quando si è di qualunque altro sesso. Non c'è differenza su questo punto. Che poi però il messaggio contiene un'inesattezza, e secondo me bisogna dirla: non è vero che sono più maschi che vengono uccisi che femmine, in realtà in percentuale sono sia maschi che femmine, certe volte di più i maschi e certe volte di più le femmine. Penso che quello che si debba dire è che in questo momento è più caldo il tema del femminicidio, perché il tema del femminicidio in questo momento in effetti è prevalente, ma è prevalente nelle nostre anime. È prevalente perché? Perché la crisi del maschio, dell'anima maschile, si esprime attraverso il femminicidio. Quindi non è che parlando del femminicidio si parla solo delle femmine, parlando del femminicidio si parla anche, e come, dei maschi. Assolutamente sì. E ti ringrazio per questo per questa specifica. Poi io vorrei chiudere con un ultimo messaggio che leggiamo comunque, perché abbiamo deciso che appunto questo spazio è aperto a tutti. Forse prende un po' una tangente che però non è detto che possiamo riprendere, che è questo: e della donna che voleva sputare in faccia al poliziotto della TAV, cosa pensate? Ma io penso, come dire, che intanto qui... penso che no, posso dire cosa penso io, no, che non, cioè, non ce la fai più, no, no. Che voglio dire, no, non c'è paragone, stiamo parlando di violenza nei confronti di esseri umani fino alla morte. Direi che uno sputo o un pomodoro o una vernice non sia assolutamente, no, ma però come dire, ci sono delle analogie. Vai. Nel senso che il poliziotto non è altro che il maschio armato dallo Stato, cioè per ragioni legittime, lo Stato che ha il monopolio della violenza. Ora, sarebbe desiderabile, forse bisognerebbe sputargli addosso ai poliziotti, se quando c'è una donna che subisce violenza e si presentano e dicono non è niente, allora lì sarebbe giusto sputargli addosso. Io penso, cioè, che a prescindere dal fatto, da come uno si comporta, maschio o femmina che sia, il problema è il senso che ha. Allora, uno può essere disturbato, giustamente, dal fatto che una persona, invece che parlare con un'altra, gli sputa. Questo va sempre male, no, dobbiamo dirlo, non è certamente una bella cosa. È bruttissimo sempre, d'accordo? Però, nel suo carattere, come dire, metaforico, ti sputo in faccia, come dicono a Napoli, no? Ti sputo in faccia è un modo per esprimere il fatto che io disprezzo quella situazione lì. Allora, il disprezzo è sempre negativo, però mettiamoci d'accordo, cosa c'è che non funziona nello Stato, nella comunità, quando c'è qualche donna che subisce violenza e chiede aiuto? Perché succede il più delle volte che nelle storie delle donne che subiscono violenza c'è la denuncia e lo Stato non riesce ad intervenire? Perché lo Stato non riesce ad intervenire? Allora, lì c'è una donna che sputa a un poliziotto perché c'è lo Stato che secondo lei interviene troppo. Ci sono situazioni in cui lo Stato non riesce a intervenire. Io ho ancora un altro messaggio, Willy, io sono qui per ascoltarlo, guarda. Ci scrivono: è come la storia della rana e dello scorpione. Lei lo prende in groppa per guardare il fiume in piena, lui promette che non la pungerà. A metà tragitto lo scorpione colpisce mortalmente la rana. È la sua natura, si giustifica da rana. Perché desidero credere agli scorpioni? Mutismo, è crollato il silenzio. E questo sarà l'argomento della prossima settimana. No, il messaggio mi sembra un po' enigmatico. Inviterei la persona che l'ha mandato ad essere un po' più esplicita, perché nell'interpretarlo potremmo avere difficoltà a rispondere. Quindi se ci manda un messaggio più esplicito, cioè se fa un commento su quello che ha detto, io penso di aver capito, però siccome non sono sicuro di aver capito, non voglio rispondere facendo un'interpretazione a cazzo mia. Va bene. Sì, certo, chiaro, no? E quindi invitiamo questo ascoltatore, questa ascoltatrice a riformulare o comunque a dare un che cosa voleva dire con questa storiella molto interessante. Molto interessante. E lo riprendiamo alla prossima puntata, tanto certo, siamo qua. È una promessa. Okay. E noi la manterremo. E un saluto e buon appetito. E grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. A mercoledì prossimo. Ciao Francesca, ciao Francesco. Ciao, ciao. Ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.